Una casetta in campagna, un orticello, una vigna, qui chi mi nasce mi regna, non cerca e non sogna la grande città. Un dolce suon mi zampogna e tanta pace nel cuore. Se vuoi goder la vita, vieni qua giù in campagna. È tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Svegliati con il gallo, svegliati nel ruscello, e bacia la tua compagna che t'accompagna col somarello. Ogni figliore è un fiore nato sulla collina, bacia una donzina, che felicità. Se vuoi goder la vita e torna tuo paesello, che sei più bello della città. Fasci lucenti di grano, sembra ogni farce un baleno, tutto un sapore nostrano, profumo di fieno, di grappoli e fior. E la sorgente pian piano mormora un canto d'amore. Se vuoi goder la vita, e vieni qua giù in campagna. È tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, e bacia la tua compagna che t'accompagna col somarello. Ogni figliore è un fiore, è nato sulla collina, bacia in una dozzina, che felicità. Se vuoi goder la vita, torna al tuo paesello, che sei il più bello della città.